La vita non è piatta. Ci sono giorni che siamo tristi e altri felici, proprio perché la vita è uguale per tutti. Anche i discepoli di Gesù avevano giorni impegnatissimi tanto da non aver tempo neppure di mangiare. Altri giorni erano felici perché tutto andava bene. Vi fu un giorno di gioia nella vita dei discepoli che riguarda anche noi, perché in quell'occasione Gesù disse qualcosa di molto importante. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca al capitolo 10. Dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ora i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 10:1-20. La gioia dei 70 discepoli era incontenibile ed avevano ragione. Non erano felici perché avevano fatto un affare. Non lo erano neppure perché in quel momento la vita sorrideva a loro, ma perché avevano scacciato dei demoni. Perché le potenze del male erano sottoposte a loro. Ragione più che giusta. Chi di noi non sarebbe felice nel realizzare che le potenze del male ci sono sottoposte? Chi di noi non salterebbe dalla gioia di poter far del bene al prossimo nel liberarlo dalla schiavitù di Satana? Eppure Gesù ridimensiona la gioia dei discepoli, anzi, a dire il vero, la spegne. E è vero che Gesù spesso sembra un bastian contrario, che quando pensi una cosa lui sostiene l'opposto, ma questa volta Gesù avanza una ragione per mettere a tacere la gioia dei discepoli che fa riflettere: rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ci saremmo aspettati che Gesù adducesse un'altra ragione più importante per gioire, ma forse la nostra delusione sta nel fatto che non abbiamo compreso appieno il significato del suo discorso. Gesù era ebreo e parlava degli ebrei. Senza questo presupposto ci è preclusa la comprensione non solo di ciò che Gesù ha detto in questa occasione, ma di tutta la parola di Dio. Per gli ebrei il nome non era un semplice appellativo dato ad una persona, ma esprimeva una sua particolarità. Mentre nella nostra cultura occidentale chiamiamo Mario o Gianni un bambino perché ci piace il nome o perché ci ricorda un parente o un personaggio noto, gli ebrei attribuivano dei nomi che avevano un significato appropriato alla persona. Un giorno ritornavo a casa da una passeggiata con un mio amico, e quando fummo vicini a casa ci venne incontro la sua cagnolina scodinzolando tutta gioiosa la coda. La cagnolina era tutta bianca, con una vistosa macchia nera su di un occhio. Il mio amico mi chiese: sai come si chiama la mia cagnolina? Nel vedermi perplesso, anche perché i cani hanno i nomi più disparati, mi rispose: si chiama Benda. Dovevo immaginarmelo. Un cane tutto bianco, con una macchia nera solo su di un occhio, non poteva che chiamarsi Benda. Il nome esprimeva la caratteristica propria di quell'animale. Questo è un caso particolare perché generalmente i nomi dei cani sono gratuiti, ma per la cultura degli ebrei il nome che veniva attribuito ai bambini esprimeva una sua peculiarità. Così, quando Isacco e Rebecca diedero il nome Giacobbe al secondogenito, era perché prima della nascita questo aveva preso per il calcagno suo fratello Esaù come se volesse uscire per primo. Per questo motivo il secondo nato venne chiamato Giacobbe, cioè colui che prende per il tallone il soppiantatore. In seguito, quando lottò con il suo Dio, cioè Yahweh, Dio stesso gli cambiò il nome e lo chiamò JSRAL, cioè colui che lotta con Dio, perché JSRA sta per colui che lotta e El sta per Dio. Anche al tempo di Gesù vi era questa usanza, e per questo non dobbiamo ignorare lo stesso nome del Salvatore. L'episodio che narra il momento nel quale viene dato il nome al figlio di Maria è descritto nel Vangelo di Matteo, e dato che i traduttori hanno commesso un errore nel tradurre dal greco, è opportuno rileggerlo. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Matteo 1:18-23. Chi legge anche con superficialità nota il contrasto tra ciò che disse l'angelo e ciò che disse il profeta in merito al nome del figlio di Maria. L'angelo disse a Maria di chiamarlo Gesù, il profeta disse che sarebbe stato chiamato Emanuele. Come mai questa apparente discordanza? Il problema sta nella traduzione. Il testo greco rende: ecco, la Vergine in ventre avrà e partorirà figlio, e chiameranno il nome di lui Emanuele, che è tradotto con noi Dio. Il testo intende dire che il figlio di Maria sarebbe stato chiamato con un nome il cui significato era Dio con noi, e non con il nome di Emanuele. In effetti il nome Gesù in greco è Jesus, che letteralmente significa Yahweh, o Dio salva. Per cui la giusta traduzione dovrebbe essere: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio il cui nome avrebbe avuto il significato di Emanuele, che sta a significare Dio con noi. Fatta questa doverosa premessa, ora siamo in grado di comprendere ciò che Gesù voleva veramente dire quando ordinò di rallegrarci non tanto per le qualità spirituali che possediamo, ma piuttosto perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Ad una prima lettura, con una cultura occidentale, siamo portati a pensare che ognuno di noi avrà il suo nome scritto nei cieli. Così, se io mi chiamo Ellero in cielo, avrò scritto il nome di Ellero. Ma non è così. Alla luce di quello che abbiamo detto, ognuno di noi nel cielo avrà un nome che troverà riscontro ad una sua caratteristica spirituale che avrà avuta sulla terra. In cielo sarà scritto il nostro vero nome, cioè la nostra vera personalità, quello che sono e non quello che vengo definito ora. Persone che sulla terra sono stati re, principi, persone altolocate, avranno nomi che esprimono una nullità, mentre coloro che sono stati umili e insignificanti, se hanno servito Cristo, avranno dei nomi altolocati, importanti. In cielo vi sarà una vera e propria rivoluzione di nomi, vi saranno delle amare sorprese per alcuni e stupende sorprese per altri, e tutto ciò dipenderà da per chi si è vissuta questa vita, e se l'obiettivo era quello di santificare il nome di Dio. Anche questa espressione, nome di Dio, ora diventa più comprensibile. Non si tratta di onorare un vero e proprio nome, come fanno i testimoni di Geova, come se questo fosse magico, ma si tratta di onorare la persona di Dio, il suo carattere, i suoi principi, la sua santità. Diamo uno sguardo ora al libro dell'Apocalisse ed esattamente alle parole che Cristo Gesù rivolse a tutte le chiese. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse 2:17. In questa promessa Gesù completa la precedente fatta ai discepoli. Chi sarà vincitore sul peccato non solo avrà il suo nome scritto nei cieli, ma avrà un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Com'è possibile ricevere un nome che nessuno conosce? Come chiameremo allora le persone in cielo se non ne conosciamo il nome? Alla luce di quello che abbiamo esaminato, la risposta è evidente. Ognuno di noi avrà un nome che rispecchierà una sua peculiarità che nessuno avrà avuto. che nessuno può comprendere. Stupendo! Se sulla Terra potessimo chiamare con un megafono galattico, il nome Pietro si farebbe presente all'appello milioni di persone, ma quando nelle assise dei cieli chiameranno qualcuno, lui solo si farà avanti, perché lui solo avrà quella caratteristica. Io avrò un nome proprio e unico come Dio. Tu avrai un nome proprio e unico come Dio. Non ci saranno delle riproduzioni in cielo. Vedo il futuro con una tale varietà di persone che solo l'eternità è degna di contenerle. Vedo il futuro con una tale varietà di colori, di sfumature, di suoni, che questo creato è piatto in confronto. Non è la visione di un sognatore, ma la reazione di chi guarda il futuro attraverso le promesse di Gesù. Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Apocalisse 3, 11-12. In questa promessa Gesù Cristo per tre volte si riferisce al termine nome. Il nome del suo Dio, il nome della città del suo Dio e il suo nuovo nome. Poiché il termine nome si riferisce a qualcosa di particolare, allora dobbiamo prepararci ad infinite sorprese. A chi ha posto fede nel Dio della Scrittura non resta che pregare e lodare nel nome di Gesù, il che non significa che debba terminare ogni sua preghiera con la formula nel nome di Gesù, ma rivolgersi a Dio e vivere per Lui nello spirito della sua volontà. Questo determina il nostro nome che avremo nei cieli. Marzo 2005. Ellero.